Smart City, la città intelligente. Buonasera da Chiara Albicocco. Stasera parliamo di un progetto che si è avviato a Torino per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, che opportunamente trattati si possono trasformare in nuove fonti di combustibile non fossile a chilometro zero. Il progetto infatti si propone di trattare in loco gli scarti, di sminuzzarli, di sterilizzarli e di gassificarli. Io la sto facendo un po' semplice, invece il processo è estremamente tecnologico e innovativo. Ne parliamo infatti con l'ingegnere Stefania Specchia, che è docente presso il Politecnico di Torino ed è qui con noi stasera. Buonasera. Ecco, io l'ho un po' semplificata, lei in realtà si occupa di studiare il processo tecnologico che sta dietro questo trattamento e allora chiediamo a lei di spiegarcelo nei dettagli. Sì, effettivamente questo progetto è molto tecnologico, è molto innovativo e prevede la discesa in campo di diversi attori, a partire da un ospedale, da un'azienda che tratta rifiuti e dal Politecnico di Torino che ha aiutato a mettere in piedi questo processo e a svilupparne la parte tecnologica. Il concetto è: i rifiuti ospedalieri che sono pericolosi e infettivi vengono presi, triturati in modo da ridurne il volume, sterilizzati in modo da non renderli più pericolosi e poi gassificati, cioè trasformati in un gas che può essere utilizzato in particolari apparecchiature per generare corrente elettrica e calore che può essere riutilizzato dallo stesso produttore dei rifiuti, quindi dall'ospedale, piuttosto che magari buttare la corrente elettrica in rete, quindi a disposizione della comunità locale. Il processo sembra semplice e anche molto efficiente. In realtà ci sono molti studi dietro, c'è un ospedale modello che si sta prestando tra virgolette come cavia, cioè vi presta i propri rifiuti, la propria raccolta differenziata, no? Esatto, esattamente. L'ospedale non solo ci presta i rifiuti, ma è anche impegnato con noi in uno studio di raccolta differenziata dei rifiuti, in modo tale già all'ospedale da preparare i rifiuti secondo diverse tipologie, con diverse caratteristiche, in modo poi da favorire il processo di sminuzzamento e sterilizzazione, in modo da garantire una produzione di gas con caratteristiche costanti, utili poi per la successiva trasformazione di questo gas in corrente elettrica e calore. Ecco, ricordiamolo, l'ospedale modello è il San Luigi Gonzaga di Orbassano, in provincia di Torino, quindi alle porte di Torino. Lei giustamente parla di sminuzzamento, di sterilizzazione, perché diciamo le tecniche tradizionali dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri non sono queste. No, ad oggi il trattamento dei rifiuti ospedalieri è un grande problema ambientale e anche economico. Infatti i rifiuti, perlomeno in Piemonte, vengono raccolti dagli ospedali da aziende che sono autorizzate e vengono trasportati fuori regione, Piemonte, dove vengono inceneriti attraverso inceneritori che hanno le opportune autorizzazioni ministeriali. Quindi di fatto il rifiuto, oltre a rappresentare un costo, viene perso. Con questo processo che stiamo mettendo a punto, il rifiuto viene trattato in loco e viene valorizzato, quindi in modo tale da restituire alla comunità tutto quello che c'è di buono, fra virgolette, all'interno del rifiuto stesso. In particolare in questo caso si parla di poter generare corrente elettrica, quindi energia, e il calore associato al processo che serve, ad esempio, può servire ad esempio per la produzione di acqua calda piuttosto che di riscaldamento di locali o di ambienti. All'interno della struttura ospedaliera, e in questo modo appunto si risolverebbe il problema del trasporto, dell'inceneritore, eccetera eccetera, e allo stesso tempo si potrebbe produrre energia in loco per essere utilizzata in loco. Questo sì, oppure l'alternativa potrebbe essere utilizzare gli attuali gestori, come ad esempio l'azienda Fotorecuperi, che attualmente si occupa dello smaltimento dei rifiuti, in cui presso l'azienda stessa viene ubicato questo sistema, quindi di sminuzzamento, sterilizzazione, poi conseguente gassificazione e quindi valorizzazione energetica, che è posto sull'area locale e quindi poi distribuisce ai vicini di casa, quindi quale può essere l'ospedale, oppure all'interno del processo è anche presente sito, che è un luogo di interscambio di merci, in cui si sta progettando di mettere in piedi una piattaforma per l'alimentazione dei veicoli elettrici e quindi ad esempio utilizzare l'energia elettrica prodotta per alimentare i veicoli elettrici che possono raccogliere ad esempio rifiuti nell'ospedale, negli ospedali della zona. Dal punto di vista economico, questo tipo di sistema, di progetto, sembrerebbe vantaggioso? Sì, da una prima analisi compiuta dall'azienda Fotorecuperi, questo sistema attualmente potrebbe permettere un risparmio dal 15 al 30% sui costi di gestione dei rifiuti, così come il rifiuto viene smaltito oggi, quindi sicuramente interessante per la comunità, perché comunque lo smaltimento dei rifiuti rifiuti ospedalieri viene pagato da tutti noi, quindi un vantaggio per tutti e anche una risoluzione del problema del trattamento dei rifiuti. E poi se aggiungiamo il fatto che viene prodotta energia e riutilizzata nell'ospedale stesso, anche un risparmio nella bolletta, insomma. Certo, nella bolletta dell'ospedale, ma anche dal punto di vista ambientale, perché se risparmiamo a tutti i camion che viaggiano da regione a regione per trasportare rifiuti, questo ne va anche a riguardo dell'ambiente, in cui si ha un po' più di rispetto per l'ambiente, in cui vengono parzialmente limitate le emissioni dei mezzi di trasporto. Ecco, dal punto di vista tecnologico, allora l'idea è, come dire, geniale, però non esiste nessuna struttura ospedaliera che sul nostro territorio faccia uso di questo tipo di tecnologia. Qual è il passaggio più ostico? Forse quello della gassificazione? Dunque, il progetto è al momento suddiviso in due fasi, una prima fase che è già operativa, che è quella che prevede la raccolta differenziata del rifiuto, lo sminuzzamento e la sterilizzazione, e questo è già in atto. L'azienda Fotorecuperi a breve otterrà tutte le autorizzazioni per poter lavorare a partire già dall'anno prossimo e quindi rendere la prima parte di questo progetto fattibile. E la seconda parte del progetto è quella che al momento in fase di laboratorio, si sta collaborando anche con l'Enea, in cui si sta studiando sui piccoli impianti pilota di laboratorio la fase di gassificazione e anche poi la fase di trasformazione del gas in energia, per poter trasformare questo progetto in una realtà nei prossimi anni. Va bene, allora davvero buon lavoro e noi aspettiamo buone notizie da questo progetto. Grazie mille e buona serata a tutti. Per stasera è tutto, noi torniamo domani per raccontarvi di un grosso progetto, City Protocol, che ha l'obiettivo di creare standard di certificazione in ambito di Smart Cities. Buona serata.